A Radio 24, due di denari con Deborah Rosciani e Mauro Meazza. La passione si sente. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Nella scatola del mondo, io e tu, cara Debora, come stai? No, non pensavi bene, che fossi radio... preparato anche su Ether Parisi, eh? Invece, ma no, ma invece... figurati se io metto in dubbio la tua preparazione su qualunque tipo di canzone, su qualunque tipo di, come dire, tematica musicale. E quindi anche Ether Parisi fa parte della nostra storia musicale. Qua è venuta e qua ha cantato le cicale. Allora, perché? Chissà se il... perché? Chissà se il professor Paolo Savona, presidente della Consob, sta utilizzando in questi minuti proprio questa canzone a corredo musicale della presentazione della relazione annuale del presidente della Consob. Ah, caspita, una cosa serissima. Quindi sì, abbiamo un pochino mescolato il leggero con il no, tutt'altro esatto. Che leggero, ecco. Perché... E però lui ha utilizzato proprio questo termine, il termine cicale, parlando degli italiani, ma non definendo l'Italia. Ha detto esattamente: gli italiani sono tutt'altro che cicale, come una distorta pubblicistica tende a sostenere, mentre sono formiche che lavorano per sostenere molte cicale estere, anche quelle di paesi che hanno un ben differente rilievo economico, come il Canada, gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Belgio, la Francia e la gran parte dei paesi sudamericani. E poi, dopo questo passaggio, ci ha anche fatto una descrizione molto aggiornata della ricchezza finanziaria degli italiani. A fine 2019, le famiglie italiane disponevano, spiega Savona, di una ricchezza immobiliare, monetaria e finanziaria al netto dell'indebitamento pari a 8,1 volte il loro reddito disponibile, di cui 3,7 volte in forma di attività finanziarie, per un ammontare di 4.445 miliardi di euro. E quindi questa è la fotografia, come dicevo, della ricchezza finanziaria degli italiani tra mobili, tra beni mobili e beni immobili. Eccoci qua, caro Mauro. E questo abbiamo dato, diciamo, in anteprima mondiale, possiamo davvero dirlo, perché il presidente della Consob, Paolo Savona, sta pronunciando queste parole proprio mentre noi stiamo andando in onda, ma abbiamo voluto anticiparvele, magari scherzando un po', alleggerendo un po', appunto, con Ether Parisi. Sì, tra oggi, l'altro, Mauro, prego. Ho dato un'occhiata anche un po' alla sua relazione, a molti passaggi non tecnici. Non a quella di Ether sono... Parisi, a quella di Savona, vuoi dire? Quella di Savona, naturalmente. Ci sono dei passaggi tecnici, ci sono anche delle pagine in cui il presidente della Consob spiega perché qualche settimana fa la Consob ha deciso di disporre il famoso divieto di vendite allo scoperto come misura per arginare la volatilità dei mercati finanziari. Spiega anche perché pian piano anche il panorama degli investimenti si doterà sempre di più di strumenti di intelligenza artificiale, anche come appunto strumento di stabilizzazione sia del mercato finanziario che degli strumenti di investimento. Insomma, ci sono dei passaggi interessanti che secondo me prossimamente dovremo andare nel dettaglio per le nostre belle puntate di Investire Informati. Lo faremo sicuramente. Oggi però parliamo di due temi molto interessanti, per così dire, ma tutti i nostri temi sono naturalmente interessanti, me lo dico da solo. Ovvio. Perché parliamo di centri estivi. Si loda, si sbroda, ti vorrei dire questa cosa qua. Adesso però mi si attorciglierà la lingua per questa intemerata che ho fatto. Allora, parliamo di centri estivi nella prima parte del nostro programma, dopo il giornale radio del risparmio, naturalmente, e nella seconda parte, dalle 11:30 in poi, torniamo sul tema dei voucher, non solo i voucher per i viaggi, voucher barra rimborsi per i viaggi, ma perché c'è tutta una trattativa un po' in corso tra, da una parte sappiamo che la nostra norma lascia la libertà agli operatori turistici di disporre, di sceglierlo tra voucher o rimborso, però dall'altra parte, insomma, i consumatori si stanno chiedendo: sì, vabbè, io posso anche prendere il voucher, ma se poi il prossimo anno mi ritrovo con servizi inferiori, prezzi superiori, eccetera eccetera, come ci possiamo regolare? e noi lo chiederemo a una esperta di valore mondiale, come sempre qui a Due di Denari. Allora ricordo, in ordine, non in ordine di importanza, i numeri, numero verde 800 24 0024 per collegarci direttamente in diretta con noi, direttamente in diretta appunto. Poi c'è il numero per i vostri SMS e WhatsApp 349 238 6666 e poi naturalmente di là dal vetro un silenzioso Peter Bescapé mi guarda severo e mi incute anche un po' di timore. Per fortuna dietro di lui la deliziosa Laura Faggin, la vedo, la intuisco sorridere dietro la mascherina. Naturalmente sempre l'operoso Marco Lombardo, a cui va il nostro ringraziamento. Debora, mi pare di avere assolto a tutti i miei doveri iniziali, ricordando in appunto numeri di telefono, temi e collaboratori senza i quali non saremmo nulla, solo delle voci nel nulla probabilmente. E allora esatto, a questo punto che cosa vuoi fare? Biglietto da visita introduttivo del programma, al quale segue naturalmente il consueto giornale radio del risparmio. Debora Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. La prima te la lascio perché ti è molto, come dire, è molto pertinente rispetto alle tue competenze, la prima notizia della giornata. Vabbè, insomma, mi tocca sempre fare il taxman, l'uomo delle tasse, ma allora oggi vi devo ricordare, se già non l'avete fatto, c'è da pagare l'IMU, per chi naturalmente è tenuto al pagamento dell'IMU, 16 giugno, però, attenzione, controllate prima sul sito del vostro comune, perché i comuni hanno la facoltà di rinviare il pagamento o di disporre, che so, che potreste pagare dopo senza maggiorazioni, senza sanzioni di sorta. Dovete controllare sul sito del vostro comune. Se avete dei dubbi potete anche riascoltare la puntata di venerdì scorso, quando il dottor Luigi Lovecchio è venuto a riepilogarci appunto tutta una serie di regole. Trovate il podcast sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cercate tra i programmi il programma 2 di Denari, troverete la puntata del 12 giugno. Debora. Bene. Senti un po', Mauro, ma ad agosto tu e i tuoi compagni di merende, Stefano Elli e Marco Lo Conte, lo rifate un altro ciclo del Serpente Corallo nel palinsesto estivo di Radio 24? Guarda, sicuramente nei fine settimana di agosto saremo presenti noi tre, ecco. Ma anche con, devo annunciare pure, nuove canzoni dei Chapter 11, che poi siamo perfetto. Noi. Perfetto. Sì. Perché i serpenti corallo, cioè i truffatori e le truffe, non mancano mai. Sì. E quindi infatti, faremo altre puntate. Ti offrirei anche una notizia da approfondire. Ne abbiamo una anche oggi e mi sembra che anche ieri ci siamo occupati di un serpente corallo, di un consulente finanziario che aveva tentato di truffare suo cognato. Sì, quindi serpenti corallo, serpenti. Esatto. Allora, adesso la notizia del giorno riguarda invece una mega truffa scoperta dagli uomini del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura di Milano. Un'inchiesta, una truffa che praticamente ha messo allo scoperto migliaia di false polizze RC Auto con i loghi delle principali compagnie assicurative e oltre 220 siti scoperti, 220 siti, ripeto, 220 scoperti senza autorizzazione da parte dell'IVAS, che è l'autorità di controllo sul mercato assicurativo. Quindi 220 siti sui quali ognuno di noi può incappare magari in cerca di informazioni per sottoscrivere una polizza per l'RC Auto, appunto una RC Auto nuova, magari per risparmiare un po', e di offerte sulle web ne trova veramente tante. E però insomma molti di questi siti sono truffaldini e addirittura si pubblicizzano e reclamizzano la propria attività utilizzando i brand delle grandi compagnie. E quindi mette in evidenza questa ennesima situazione l'Unione Nazionale Consumatori da parte, diciamo, del presidente, l'avvocato Massimiliano Dona, che appunto parla proprio di siti fake che sono ormai diventati un'emergenza nazionale, stanno registrando una crescita esponenziale, ma soprattutto li mette in guardia da un aspetto: le persone che vengono trovate con il tagliando assicurativo contraffatto, ma perché hanno sottoscritto queste polizze senza la loro responsabilità, non avendo intuito sin dall'inizio che sono stati truffati, in realtà incorrono nelle stesse possibilità appunto di essere puniti dall'autorità giudiziaria, esattamente come chi non, come chi decide di non assicurare il proprio veicolo. Per cui l'avvocato Donna dice: noi stiamo chiedendo di modificare il codice della strada nella parte in cui il codice, l'articolo 193 per l'esattezza, dice l'avvocato Donna, fa di tutta l'erba un fascio e fa scattare le stesse pesanti sanzioni pecuniarie sia per chi volontariamente decide di non assicurare il proprio veicolo sia chi è vittima di una truffa. Per cui fate attenzione, rivolgetevi alle grandi compagnie, ad operatori professionali e qualificati, perché davvero il pericolo anche in questo caso è sempre dietro l'angolo, anzi il serpente corallo, oserei dire. È proprio così. E allora invece non è un serpente corallo, ma sarà disponibile dal primo luglio il bonus vacanze. Vorremmo parlarvene, ma ancora mancano dei pezzetti, quindi aspettiamo ancora qualche giorno. Strano. Tipo però, qualche misura attuativa, che cosa manca? Ma sì, le solite cose. Adesso sai, c'è anche il problema di avere la app disponibile per far partire la cosa. Allora, però già un po' di informazioni sono effettivamente accessibili. Le trovate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, agenziaentrate.gov.it, perché lì proprio nella pagina iniziale, se scorrete la pagina iniziale, trovate un riassunto di come funzionerà il bonus vacanze, che potrà essere richiesto e speso dal 1 luglio al 31 dicembre di quest'anno. Bisogna avere un ISEE di nucleo familiare fino a 40.000 euro, quindi serve la dichiarazione sostitutiva unica, la DSU, e l'importo del bonus varia secondo quanto è numeroso il nucleo familiare, quindi si arriva fino a 500 euro se il nucleo familiare è di 3 o più persone, 300 euro per 2 persone, 150 per una persona. Mi limito a dire, serve anche per questo bonus lo SPID, l'identità digitale SPID, oppure la carta d'identità elettronica. Quindi se volete premunirvi, abbiamo ancora qualche giorno prima del debutto di questo bonus dal 1 di luglio, potete farlo già richiedendo lo SPID. Partite dal sito agid.it, l'Agenzia per l'Italia Digitale, lì ci sono tutte le informazioni di base. Ne abbiamo parlato anche a Due di Denari in una puntata molto recente. E adesso sentiamo chi bussa alla porta del nostro programma. Dillo a Due di Denari. Buongiorno a tutti. Volevo un'informazione riguardo al bonus centri estivi. Sia io che mia moglie stiamo lavorando, però facciamo cassa integrazione un giorno a settimana. Volevo capire, abbiamo due figli e volevo capire se il bonus ci spetta oppure no. Noi le domande, le richieste dei nostri ascoltatori, quindi subito pronta l'ospite che darà una risposta. Ospite di valore mondiale, come sempre qui a Due di Denari, diamo il benvenuto a Valentina Paluzzi, che è esperta del patronato INAS CISL in materia di tutela della maternità. Benvenuta a Due di Denari. Sì, buongiorno. Buongiorno. È proprio vero che ti si è rotta la lingua, prima l'abbiamo richiamata la circostanza, pronti via. Sì, sì, ma poi sono anche un po' in imbarazzo perché oggi tutti gli esperti, tutte le persone qui che mi circondano, voi che mi circondate, siete tutte donne, quindi mi sento un pochino in minoranza e allora sarà per questo che ho azzurra, anche un timore reverenziale. Sì, infatti sono la quota azzurra del programma Due di Denari. Da dove partiamo, Deborah, con la dottoressa Paluzzi? Non lo so se la dottoressa Paluzzi vuole rispondere all'ascoltatore che abbiamo appunto avuto modo di inserire nel nostro programma, ci ha lasciato il suo messaggio come fanno molti ascoltatori appunto al nostro numero al 349-238-6666. Un giorno di cassa integrazione a testa per questi due coniugi che hanno due figli e vorrebbero capire se possono utilizzare questo bonus, se possono richiederlo. Ne hanno diritto? Allora, questa misura sì, in effetti è molto richiesta, anche come patronato abbiamo avuto molte richieste per la presentazione sia del bonus babysitting che di quello appunto per pagare i centri estivi. In realtà queste sono misure alternative tra loro e alternative al congedo parentale Covid, che non possono essere utilizzate se l'altro genitore, se vi è qualcuno nel nucleo familiare che risulta beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa, come appunto la cassa integrazione. In questo periodo in cui molte aziende stanno riducendo l'attività lavorativa, Queste misure sono riservate a chi effettivamente entrambi i genitori del nucleo familiare sono occupati a tempo pieno. E quindi, seguendo le indicazioni del decreto Cura Italia prima e del decreto Rilancio poi, e anche le indicazioni dell'INPS fin da un messaggio della fine di marzo, questa prestazione, come il bonus babysitting, è incompatibile se l'altro genitore è disoccupato, non lavoratore o percepisce strumenti di sostegno al reddito. Quindi basta anche una giornata, cioè una cassa integrazione molto contenuta per impedire l'accesso a questo bonus. Sì, è molto penalizzante ed è vero anche che alcune indicazioni sono ancora in divenire. Cioè l'INPS ha pubblicato una circolare sull'argomento dando indicazioni più operative sulla presentazione delle domande, ma ancora non siamo scesi nel dettaglio. Sicuramente possiamo fare delle cose, possiamo chiedere, avendo un caso concreto, se questo può essere appunto in qualche modo, diciamo, sanato, però al momento le indicazioni ufficiali che bisogna dare è che sono incompatibili queste. Quindi tra l'altro, Mauro, stavo pensando, i centri estivi sono aperti da ieri i bambini possono tornare a frequentare questi centri, ma le famiglie non sanno se potranno ottenere questo bonus appunto per pagare ovviamente questa attività e quindi insomma si prendono anche un pochino di rischio di doverlo pagare di tasca propria e quindi insomma ancora una volta un po' delle incongruenze che effettivamente, caro Mauro, sono state un po' tipiche di questa fase di grande confusione, però insomma speriamo di poter accontentare quante più famiglie possibili. A quanto ammonta peraltro, dottoressa Paluzzi, il bonus per i centri estivi? Perché già le associazioni dei consumatori hanno cominciato ad inviperirsi per il fatto che hanno visto molti aumenti di prezzo in varie località d'Italia dei centri estivi appunto che si sono attivati per aiutare e sostenere le famiglie in questa fase. Quanto ammonta il bonus? Sì, questo bonus può essere richiesto appunto da ieri, quando hanno riaperto i centri estivi, fino al 31 di luglio, è per chi non ha utilizzato finora nulla pari a 1.200 euro per i lavoratori del settore privato, per gli iscritti alla gestione separata e gli autonomi, mentre pari fino a 2.000 euro per i lavoratori del pubblico impiego per quelle categorie che ne hanno diritto, cioè sostanzialmente le categorie del settore sanitario e anche delle forze armate, forze dell'ordine che sono impegnate nel contrasto a questa emergenza sanitaria. Questo bonus serve a coprire queste spese che già Deborah ricordava risulterebbero in aumento secondo Federconsumatori. Si pensava nel 2019 con una spesa media di 672 euro al mese e adesso la cifra può arrivare secondo Federconsumatori anche oltre 860 euro al mese. A voi risulta questo aspetto, dottoressa Paluzzi? Sì, sicuramente un po' è un fenomeno generale che dopo questo periodo di chiusura totale di quasi tutte le attività in Italia, adesso alla riapertura capita frequentemente che le attività abbiano aumentato i prezzi, anche un po' diciamo per far fronte a questo, alla perdita che hanno avuto in questi mesi. Comunque il bonus è di un importo anche abbastanza, diciamo, consistente, fino a 1.200 euro, appunto 2.000, ed è un bonus per nucleo familiare, quindi si può richiedere anche per più figli, però l'importo massimo che si può avere è questo, appunto, 1.200 o 2.000. L'importo viene poi erogato direttamente al lavoratore che ne fa richiesta attraverso appunto un bonifico nel suo conto IBAN che viene dichiarato al momento della presentazione della domanda, e con questa cifra… Non sul libretto famiglia, quindi? No, il libretto famiglia per quanto riguarda il babysitter. Il bonus, diciamo, babysitting, allora sì, quello deve transitare attraverso il libretto famiglia. Quindi invece c'è un'ultima domanda, dottoressa Paluzzi. È importante che il centro estivo che si sceglie sia in qualche maniera autorizzato all'operazione, oppure la famiglia può scegliere qualunque centro estivo, poi chiaramente allegare alla presentazione della domanda per il bonus la certificazione dell'avvenuto pagamento e ottiene il bonus se ne ha i requisiti? Quindi diciamo il centro estivo è in libera scelta della famiglia. Quello che è indicato, diciamo, nell'ultimo messaggio che l'INPS ha pubblicato sull'argomento, sull'avvio della nuova procedura per la presentazione delle domande anche per i centri estivi, è il messaggio 2350 del 5 giugno 2020, Ciò che è richiesto è la comprovata iscrizione ad un centro estivo, ed è anche centro estivo e attività similari, sono centri, attività diurne, centri che hanno funzioni educativo-ricreative, c'è un elenco appunto di codici che questi centri devono avere per poter essere utilizzati dalle famiglie attraverso questo bonus. Con questo elenco praticamente deve essere indicato in domanda e deve essere anche allegata all'iscrizione al centro. Allora, grazie dottoressa Paluzzi, mi raccomando anche lei non lasci il paese, perché penso che su questo bonus dovremo tornare ancora. E adesso Deborah, un pochino in ritardo, le borse. Andiamoci piano con questi messaggi, siamo sempre un programma di economia. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. Dietro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare. Ragazzi, allora è tutto chiaro. Il governo si è messo d'accordo con le aziende per far fare un giorno di cassa integrazione a settimana, così non eroga più nessun bonus. Benissimo, grande governo. Ciao ragazzi, da Roberto. Cara Deborah, allora chiaramente ogni bonus ha una platea che viene delimitata in un modo o in un altro, e questo poi genera anche delle lamentele. A questo proposito sono arrivati diversi messaggi, è stato detto, ma forse non siamo stati chiari. Il bonus per quanto riguarda i centri estivi è per dipendenti del settore privato, per gli iscritti alla gestione separata INPS, per gli autonomi iscritti all'INPS, per gli autonomi iscritti alle casse, ma non è per i dipendenti del settore pubblico. Attenzione però, spetta invece ai dipendenti del settore pubblico se sono dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, quindi stiamo parlando dei medici, degli infermieri e anche le forze dell'ordine. Bravissima, come diceva la nostra esperta di prima. Sì, bravissima, hai colto esattamente quello che la nostra esperta ci stava segnalando in precedenza. E adesso passiamo da un'esperta a un'altra esperta, perché oggi, come ho detto, sono tutte esperte e tutte naturalmente come sempre di valore mondiale, perché è tornata e abbiamo nuovamente disturbata la avvocato Barbara Puschiasis, che è presidente di Consumatori Attivi, è responsabile dei Consumer Protection per Consumerismo e poi soprattutto, ci fa piacere dirlo, è una delle esperte che rispondono nella nostra iniziativa speciale Omo Covid. Tutto quello che vorreste sapere su bonus, quarantena, permessi, cose concesse, cose non concesse, non avete mai osato chiederlo, allora chiedetelo al sito di Radio 24, home page, nella pagina iniziale trovate tra le iniziative speciali proprio Omo Covid. Risponde anche, tra gli altri esperti, Barbara Puschiasis. Buongiorno, bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per questa presentazione. È il minimo. Deborah. Onorata. Sì. A te. Sì, allora sono onorata io di averla naturalmente nella squadra di Omo Covid, e quindi grazie anche a Mauro per aver ricordato questa operazione che abbiamo messo in piedi di domande e risposte per tutti gli ascoltatori, anche perché ce ne arrivano tante di richieste in radio mentre andiamo in onda, ma come spesso raccontiamo abbiamo anche tantissime richieste che ci arrivano in privato, non riusciamo sempre ad esaudirle tutte, quindi proviamo anche a così arricchire questo serbatoio sul sito di Radio 24 che abbiamo creato proprio per voi. Allora, il tema di stamattina è, ancora una volta, perché non è la prima volta che affrontiamo questo argomento, il tema dei viaggi annullati causa coronavirus. Viaggi annullati perché abbiamo avuto il lockdown per molte settimane, quindi chiaramente compagnie aeree, tour operator e strutture di ricezione, tutti hanno annullato la loro attività. Ma ci sono delle circostanze anche per le quali molte famiglie, molti individui decidono, di loro spontanea iniziativa evidentemente, di annullare un viaggio che hanno in programma prossimamente, perché non hanno la certezza di poterlo fare, non hanno la certezza di poterlo fare, Mauro, con serenità, perché anche questo è un aspetto importante. E allora lì apriti cielo, che cosa succede? Non lo sappiamo ancora, ci sono comunque casi diversi. Chi ha avuto l'obbligo alla cancellazione deve essere rimborsato integralmente, anche tramite voucher, secondo quanto aveva stabilito il nostro bene amato decreto Cura Italia, no? Mauro, è così. E però la Commissione Europea e l'antitrust che cosa hanno detto? E beh, insomma, non è che lo deve dire il governo, come la famiglia, l'individuo, il consumatore deve essere rimborsato. Deve essere una sua scelta. quella della modalità di rimborso. Ho chiarito le cose, ho fatto un riassunto adeguato, Mauro? Ma secondo me sì, però sentiamo cosa dice Barbara Puschiasis. Perché qua insomma ancora c'è molta incertezza e ogni persona si sente rispondere dall'interlocutore chiamato in causa in maniera un po' diversa. Avvocato Puschiasis. Assolutamente corretto quello che è stato detto. Abbiamo molto apprezzato l'intervento dell'antitrust perché è andato a recepire un po' quello che era il nostro grido di dolore sollevato alla luce dell'articolo 88 del decreto Cura Italia, che ha previsto che ricada appunto sull'operatore e non sul turista, quindi sull'utente del servizio turismo, la scelta tra un voucher o un rimborso. L'antitrust è intervenuta, ha detto deve essere comunque sempre riconosciuta la possibilità al consumatore di ottenere un rimborso, eventualmente proprio per la particolare circostanza nella quale noi ci troviamo, dove oltre all'emergenza sanitaria si somma anche l'emergenza economica e quindi c'è anche la necessità di poter salvaguardare un comparto che è quello del turismo molto importante in Italia, potrebbe essere prevista, anzi si auspica che sia prevista la possibilità di andare a rimborsare quel voucher che eventualmente viene concesso dall'operatore scaduto il termine per utilizzare il voucher nel caso in cui il consumatore non lo utilizzi, oppure che al voucher vengano abbinate anche delle assicurazioni proprio al fine di garantire il consumatore nel caso di fallimento dell'operatore, perché in queste circostanze non possiamo escludere che tanti operatori economici del settore turistico oggi ci sono e magari domani non ci siano più, e quindi non è giusto che famiglie italiane che stanno vivendo anch'esse una crisi economica pesante debbano veder perdere i loro soldi in questo modo. Quindi assolutamente noi siamo in linea con quello che è stato detto dall'antitrust, sottolineiamo come sia necessario che le famiglie italiane abbiano subito anche liquidità. Quello che si chiede è quello che era previsto anche dal codice del turismo, quindi che venga riconosciuta la possibilità invece da parte del consumatore di scegliere lui stesso se ottenere il rimborso, perché ci sono tantissimi casi, l'abbiamo visto anche nelle domande della rubrica Homo Covid, dove il consumatore magari non si trova più nelle condizioni di effettuare quel determinato viaggio o di utilizzare quel determinato servizio. Molti casi, la interrompo per un attimo avvocato, proprio di famiglie che ci raccontano: noi avevamo programmato una bella vacanza per quest'estate, adesso uno ha perso il lavoro, l'altro è andato in cassa integrazione, io non posso permettermi di fare la vacanza che avevo immaginato, devo rinunciare, quindi in qualche maniera bisogna venirsi incontro. Quindi chiaramente ci sono... Sì, la maggior parte delle persone ha anche già utilizzato le ferie, perché tantissimi nel periodo di lockdown hanno dovuto consumare le ferie, quindi quest'estate probabilmente tante persone le ferie non le faranno. Vi fermo un attimo, signore, perché in questo momento è il 45esimo e l'arbitro fischia il traffico. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. Due di denari. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. Si fa presto a dire buon viaggio, qui bisogna capire se si può viaggiare, se si può spostare innanzitutto, e poi se come dire, avremo dei soldi, avremo dei voucher, che cosa ci daranno. La norma attualmente, diciamo, lascia la facoltà di scelta all'operatore, il quale può decidere unilateralmente, mi viene da precisare, senza polemica, sì, avvocato Puschiasis, la discrezione, ecco, sceglie tra erogare un voucher o erogare un rimborso. Allora ammettiamo che uno si abitui al voucher, si abitui all'idea del voucher, in molti ci stanno scrivendo, non sono assolutamente rassegnati a questo, però c'è il problema: il voucher vale per quanto avevamo pattuito, e se poi nel frattempo alcune cose cambiano, che so, non ci sono gli stessi servizi che avevo prenotato originariamente, i prezzi sono aumentati, non ho lo stesso trattamento che avevo prenotato originariamente. Avvocato Puschiasis, in questi casi, e sono tanti quelli che ci stanno scrivendo così, come ci si regola? Allora, c'è un po' di confusione, diciamo, tra voucher e pacchetto sostitutivo. Nel senso che l'articolo 88 bis del decreto Cura Italia parla di entrambi questi strumenti e dà la possibilità, ad esempio nel caso di pacchetti turistici, nel caso di strutture ricettive che devono dare riscontro all'utente, di poter proporre appunto un pacchetto sostitutivo o un voucher. Qual è la differenza? Allora, il voucher è come un buono, quindi un buono di pari valore della somma che abbiamo pagato da spendere entro un anno. Per quanto riguarda invece il pacchetto sostitutivo, la norma è abbastanza chiara, perché dice il pacchetto sostitutivo che deve essere proposto deve riguardare appunto un servizio di qualità uguale a quella che era stata originariamente acquistata, oppure superiore, oppure inferiore, ma nel caso in cui sia inferiore, quindi con dei servizi minori, deve essere rimborsata la differenza. Questa è appunto la regola. Tante persone dicono: ma mi è stato dato un voucher, ho riprogrammato quindi la vacanza dopo sei mesi, però mi è stato dato un servizio diverso. Ecco, si sta parlando di voucher in quel caso, non di pacchetto sostitutivo. Certo. E comunque dico anche una cosa, avvocato Puschiasis, magari questo approccio non piace molto alle associazioni dei consumatori, dobbiamo un pochino anche scendere a patti, non possiamo immaginare che se a gennaio abbiamo comprato un viaggio, un pacchetto turistico che avremmo voluto goderci in agosto, ammettendo di poterlo rinviare, di accettare di rinviarlo utilizzando il voucher, non possiamo immaginare che fra sei mesi, quando decideremo appunto di godercelo, le condizioni saranno identiche a quelle che avevamo immaginato. Io credo anche che un pochino di buonsenso da parte nostra dovrà esserci. Che cosa ne pensa? Io mi rendo conto che le associazioni dei consumatori sono molto, non dico severe o rigide, ma molto attente a tutelare gli aspetti di diritti dei consumatori al 100%, però forse anche un invito al buonsenso, alla ragionevolezza andrebbe fatto. Che cosa ne pensa? Allora, assolutamente sì, lo vediamo tutti i giorni quando giriamo anche per i nostri paesi, le nostre città, entriamo in un bar, un ristorante o in un negozio, quali sono le misure che gli esercenti, gli operatori hanno dovuto adottare, stanno adottando per contrastare il Covid. Quindi sicuramente queste misure qua, nonché la sospensione dell'attività per circa due mesi, ha determinato in capo agli operatori la necessità di aumentare quelli che sono i prezzi. Dobbiamo però anche considerare che sono state poste sul piatto diverse misure, sia da parte del governo che da parte anche delle singole regioni, per sostenere le attività economiche. Non riusciranno sicuramente queste misure a sostenerle completamente, però è un buon aiuto. Noi quello che diciamo è che i prezzi devono essere monitorati, ed è quello che continuiamo a chiedere anche con proposte costruttive. Non deve essere questa la scusa per far fissare ingiustificatamente alle stelle, certo, dei prezzi, che poi andrebbero a precludere a tante famiglie la possibilità di avere un momento di svago, di riposo. Sì, sì, certo. Mauro, abbiamo tanti casi che avevamo messo da parte. Ma guarda, ho l'imbarazzo della scelta, davvero. Allora, se uno proprio il voucher non lo vuole perché non può magari proprio andare in quel posto, mettiamo che ci siano ancora delle limitazioni di tipo sanitario, può fare forza su questo per costringere l'operatore al rimborso e non al voucher? Sto pensando al Sud America, ad esempio, dove certo. La situazione è problematica e quindi insomma non è prudente proprio andarci, mi pare di capire. Sicuramente non è possibile effettuare un viaggio verso paesi che sono interdetti, quindi se la destinazione riguarda uno di questi paesi, il viaggio non è assolutamente praticabile e quindi c'è l'impossibilità sopravvenuta del viaggio così come riconosciuta dalle norme dell'emergenza Covid. Questo determina appunto la possibilità di ottenere il rimborso del voucher. È chiaro che il voucher è spendibile entro un anno dal momento in cui viene emesso. Se entro un anno quella determinata destinazione che io avevo prenotato e che risulta l'unica destinazione possibile eccetera del mio viaggio non è praticabile, insomma, la norma non viene in aiuto al consumatore, lo dico molto chiaramente, però confidiamo che ci possa essere una mediazione, quella di cui parlavamo prima, no? tra certo. L'utente e il tour operator o insomma l'operatore. Avvocato Puschiasis, rapidamente perché siamo in chiusura, vediamo se ce la facciamo in un minuto, il tema voli compagnie aeree. Allora qua i comportamenti sono molto differenziati, ma mediamente per voli che sono saltati nelle scorse settimane, le compagnie inviano all'utente in automatico un messaggio nel quale chiedono vuoi il voucher o vuoi il rimborso del prezzo pagato per il volo che non hai potuto fare. Dopodiché si fa la risposta e queste qua molto spesso non rispondono. E in automatico propongono il voucher, quindi la prima richiesta, diciamo la prima offerta è quella dell'alternativa. Quando tu rispondi voglio il rimborso del volo, ti dicono no, ti do il voucher. Avete notato anche voi questi comportamenti? Gli ascoltatori ce lo stanno segnalando diffusamente. Abbiamo notato come in realtà alcune compagnie abbiano provveduto a pagare, abbiamo notato come alcune compagnie non rispondano proprio. Quindi riteniamo che ci sia anche probabilmente un sovraccarico di pratiche da gestire da parte delle compagnie. Noi quello che consigliamo sempre è di utilizzare la PEC della compagnia aerea e quindi di scrivere attraverso anche la PEC. Quello è l'unico modo che ci dà una certificazione, no, della nostra richiesta. Certo, quindi